America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington per l'inaugurazione di Donald Trump, Mario Platero. Beh, alla fine ci siamo arrivati, è finita questa lunghissima maratona elettorale, politica, transizione. A questo punto ci sarà il giuramento, Donald Trump diventerà presidente, l'America imboccherà un'epoca storica nuova. Sembra incredibile esserci, no? Sembra un po' una fantasia, eppure tutto molto concreto. Ho qui nelle mie mani l'invito per l'inauguration che comincerà fra poche ore. C'è un'aquila reale americana in rilievo d'oro, dorata, l'aquila che tiene da una parte il ramoscello d'ulivo e dall'altra le frecce, simbolo della guerra, l'onore della sua presenza, e per l'inaugurazione del presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America al Capitol Hill. Ecco, questo succederà però più avanti, perché fra un'ora e 45 minuti esatti, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello uscente, Barack Obama, si incontreranno alla Casa Bianca. Sarà questo l'ultimo atto ufficiale di Barack Obama. Si incontreranno alle 9:30, arriveranno sia Donald Trump che il vicepresidente Mike Pence con rispettive signore nel portico meridionale. Andranno nella stanza blu, dove ci saranno Michelle e Barack Obama, e prenderanno un caffè. Insomma, l'avventura per il giuramento, come giusto, comincia con un caffè. Dopodiché i due alle 10:30 usciranno, entreranno in macchina insieme, ci sarà una scorta del congresso e arriveranno al Campidoglio, dove alle 11:30 comincia la cerimonia di inaugurazione formale sul lato ovest del Parlamento, e ci sarà il discorso di Donald Trump, e subito dopo presterà giuramento sulla Bibbia nelle mani del giudice capo della Corte Suprema John Roberts. Ecco, da quel momento Trump diventerà il 45esimo presidente degli Stati Uniti e cercherà di dar corpo alle promesse elettorali, quella principale di rifare l'America grande. Lo slogan, lo ricorderete, che lo ha trascinato alla vittoria dopo una partenza in svantaggio ancora prima delle primarie. What we've done is so special. All over the world they're talking about it, all over the world. And we are going to make America great again, and I'll add, greater than ever before. Ecco, abbiamo un'anticipazione forse di quello che dirà oggi Donald Trump, e il breve intervento che ha fatto ieri sera al Lincoln Memorial, al concerto che si è tenuto lungo la grande spianata che va dall'obelisco al Lincoln Memorial, appunto, dice: quello che abbiamo fatto è incredibile, in tutto il mondo ne stanno parlando, in tutto il mondo. Da domani lavoreremo tutti insieme per far tornare l'America alla sua grandezza, per renderla ancora più grande di quanto non lo sia mai stata finora. Grazie a tutti. Ecco, questa è stata un'apparizione, un cameo, come si dice, in questo concerto. Alla serata, devo dire, non hanno partecipato alcune delle grandi star globali del mondo dello spettacolo. Come forse saprete, c'è stato un movimento che ha avuto un certo successo per boicottare questa cerimonia inaugurale di Trump, considerato lontano dagli ideali di altruismo e progressismo sul piano dei diritti civili, che invece è un mondo di ideali che appartiene certamente invece al mondo dello spettacolo. Trump con Mike Pence si è recato al cimitero di Arlington, è stata questa la sua prima uscita formale della cerimonia dell'inauguration, per depositare una corona di fiori al milite ignoto. Ecco, devo dire, ci sono indici di ingradimento che ci danno un'indicazione che questa transizione di Donald Trump non è andata bene come sono andate in passato altre presidenze, e questo andamento dovrebbe trovare conferma nel fatto che il pubblico atteso per la sua inaugurazione è stimato in circa 800-900.000 persone, un dato piuttosto basso, soprattutto se lo confrontiamo con le persone che sono venute all'inaugurazione di Barack Obama. Pensate, ci furono 1,8 milioni di persone. Dopo il giuramento, Barack Obama e Michelle se ne andranno in California per qualche giorno, e Donald e Melania Trump saliranno sulla loro vettura presidenziale, scenderanno lungo la Pennsylvania Avenue fino alla Casa Bianca per poi presenziare alla parata presidenziale. Con Donald J. Trump alla guida del paese avremo un nuovo presidente, un presidente imprevedibile. Lo sappiamo. sappiamo. Avremo un nuovo modo di governare, un modo di governare pragmatico, business-like. Ci sono più imprenditori e uomini d'affari ed ex capi azienda in questo governo Trump che in ogni altro governo precedente. Ci sono, pensate, almeno 3 miliardari, ci sono 5 ex capi azienda. Ma per avere una chiave di lettura di come saranno i primi 100 giorni di Donald Trump, non si dovranno mai perdere di vista quelle tre direttrici di cui vi parlavo: l'imprevedibilità del presidente, il tentativo di gestire il governo in modo efficiente con presupposti aziendali e una rivoluzione mediatica che vuole eliminare l'intermediazione, secondo alcuni l'intrusione con fake news, come ama dire Trump, dei media nei fatti del governo. Ecco, in tutto questo non possiamo ignorare che domani ci saranno circa 1 milione di persone, in stragrande maggioranza donne, la marcia delle donne per protestare contro le parole, contro il tono negativo, l'atteggiamento paternalistico, aggressivo di Trump nei confronti delle donne. Non si può ignorare anche che oggi John Lewis, uno dei più grandi leader del movimento dei diritti civili, compagno di battaglia di Martin Luther King, non sarà presente alla cerimonia inaugurale. Questa cosa ha destato molta preoccupazione perché non era mai successo prima. L'America deve essere unita. Questo dà un po' l'idea di quanto spaccato sia ancora il paese, di quanto difficile sarà la missione di Trump di cercare di riunificarlo. E devo dire che in parte, se siamo in questa situazione, e lo dobbiamo anche alla retorica molto aggressiva di Trump, una retorica che è stata sicuramente l'ingrediente chiave, attenzione, della vittoria di questo presidente repubblicano, perché ha sbaragliato i concorrenti con questa sua originalità ed è riuscito a cogliere quello che l'americano medio voleva. È stata una ribellione questa contro la linea. Devo dire che nella loro saggezza i padri fondatori hanno creato degli spazi perché alcune di queste tensioni si confrontassero prima di esplodere, e così è successo. Sarà automatico che il modello Trump, il modello business di Trump possa funzionare? Forse sì, forse no, perché applicare tecniche aziendali quando in consiglio di amministrazione ci sono 535 membri del Congresso non è facile. 535 membri del Congresso, di cui la metà vogliono che tu fallisca. Nel frattempo, mentre Trump alla parata farà alcune di queste riflessioni, ci saranno un centinaio di persone che avranno lavorato per 5 intensissime ore al trasloco delle due coppie presidenziali. Intorno alle 3:30 del pomeriggio Donald e Melania, o comunque a partire dalle 3:30, saranno accolti nell'ingresso principale al portico meridionale. Il capo degli uscieri della Casa Bianca, il signor Reed, li saluterà in modo molto semplice, un modo ormai tradizionale usato da 200 anni. Benvenuto nella sua nuova casa, signor Presidente. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye. And get going.